deve fare la raccolta differenziata, allora non avremo più rifiuti. 2 ore e mezzo di corteo senza incidenti, con una presenza discreta della polizia. Professore di Chiaiano sfilano in migliaia per dire no alla discarica. Movimenti vicini ai centri sociali, tanti cittadini, la gente normale con bambini e disabili, mostrano un necrologio della democrazia e sottolineano che con la malavita non hanno niente a che vedere. Noi partiamo i camorristi a passeggio, vede? Questi sono i camorristi no global. Cioè bambino. Ma bambino. Quanti anni ha? Lui, 1 anno e mezzo. Da Chiaiano, dopo le parole di Berlusconi, è arrivato un segnale positivo per tutte le comunità in lotta, dicono i Notav e i No dal Molin, che ieri solidali erano a Napoli. Siamo solidali con la loro lotta, perché sono un po' le stesse lotte, cioè noi non ci opponiamo a una devastazione che vogliono fare sul nostro territorio, loro si oppongono a una devastazione sul loro territorio. In via Cupa dei Cani, teatro degli scontri tra cittadini e forze dell'ordine, poco più di una settimana fa si celebra la festa della ciliegia in attesa dei riscontri dei rilievi tecnici nella cava. Laura Vigiano, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli.